Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sant'Ennotar Nicola, parte undicesima. Ma dentro di me qualcosa si ribellò. Non era così che poteva finire tutto, era assurdo. Avevo lavorato per anni per costruire qualcosa. Ero andato a Milano prima e a Genova poi per creare delle basi di lavoro. Dal 65 in poi avevo rischiato la pelle per 150.000 lire al mese, prelevate dal bottino, per lasciare da parte il gruzzolo che costituisse la piattaforma per un lavoro politico. E tutto era stato inutile. Questo mi diceva ora Piero mentre fumava una sigaretta. Continuai a chiedere, continuò a parlare, mi raccontò tutto. Volevo sapere come era stato possibile un inganno del genere, non tanto compiuto contro di me, ma contro la causa. Volevo cercare di capire, attraverso queste spiegazioni, il motivo del nostro fallimento politico, perché avevo coscienza che il fatto stesso di essere isolati e braccati da tutti come banditi e rapinatori era il fallimento di tutti i miei progetti, dei miei sogni. «Sai perché non mi incazzo come te ora?» riprese Piero. «Perché già da tempo erano morti dentro di me questi progetti, questi sogni. A te capita ora, nel modo più brusco, al momento più duro. A me è successo a poco, tempo fa. Ora non me la prendo più, vedi? Ho scelto di fare il bandito e creperò da bandito. È tutto razionale, no? Certo, per te è diverso». Ti capisco, è inutile chiederti scusa, sarebbero parole vuote, non cambierebbe nulla. Tu hai avuto un torto, o forse un merito, chissà, quello di essere un puro e anche un sognatore ingenuo. Io mi ero scocciato, a un certo momento, di sognare. Ma non ti rendevi conto che a partire da un certo punto io e Danilo non eravamo più quelli di prima? Certo, mi ricordavo bene, ricordavo le discussioni, le fratture, certi loro atteggiamenti, certi ragionamenti che mi parevano strani. Quante volte avevo dovuto intervenire per appianare le loro divergenze sul modo di agire e spingerli ad affrettare i tempi per l'inizio di un lavoro politico. Ora capivo perché, mentre sul primo problema erano sempre antagonisti, sul secondo invece loro due erano sempre uniti nel trovare convincenti motivi per rinviare. Era ovvio, e me lo spiegò appunto Piero. Vedi, era impossibile fare ciò che ci eravamo proposti all'inizio. Anch'io, come te, ora cercai di non ammetterlo. Ma poi, quando mi convinsi che le nostre forze erano troppo deboli per un piano così ambizioso, entrai in crisi. Cominciai a perdere ogni speranza. Cominciai a fregarmene di tutto e di tutti. Quando mi accorsi che Danilo non marciava, che era esitante, che ogni nostro progetto era destinato a fallire politicamente, che non si sarebbe potuti passare a una fase costruttiva, allora decisi di continuare sulla strada iniziale. Per me attaccare una banca era già sufficiente ad appagare il mio desiderio di ribellione. Tu mi chiedi del denaro, che fino abbia fatto. Ricordi, vero, come ai primi tempi la nostra organizzazione riusciva a stento a finanziarsi? Tutte le iniziative mangiasoldi, l'autorimessa, la carrozzeria, l'impresa edile di Aosta, tutto per dare una copertura alla nostra attività, ai nostri spostamenti e le trasferte, le basi a Milano, a Genova e tutto il resto? Cosa vuoi? A un certo momento mi sono scoglionato. È tutto un lavoro inutile, pensai. E poi Danilo, tu lo sai bene come si comportava Danilo. Non lo critico, per tanti versi è stato il miglior compagno che potessimo avere, ma era inevitabile che vivendo in un certo modo, in un certo ambiente, finisse per avere una mentalità piccolo borghese. Cominciò a prendersi sul serio, come impresario e questo lo fregò e ci fregò tutti. Era in buona fede, certo, ma a poco cominciò ad assumere una mentalità borghese e poi ce ne accorgemmo da quel suo non voler partecipare più a lezioni. Alla fine, dopo il fallimento delle iniziative di copertura che ci mangiarono milioni, mi disse chiaramente che non aveva più intenzione di correre tanti rischi per niente, ricordi? Ci fu ancora una discussione burrascosa dopo l'assalto di Rivarolo Canavese. Ricordavo benissimo, ricordavo pure quel mezzo disastro che era stato l'assalto alla gioielleria e le relative discussioni tra lui e Danilo e tutte le altre volte precedenti. Bene, tutte le divergenze tra me e Danilo si riducevano al modo di agire, ma il fine era comune: fare semplicemente delle rapine e intascare i soldi. Tanto avevamo provato prima a fare diversamente, che cosa avevamo ottenuto? Niente. Solo rischi e sacrifici. L'unica differenza tra me e Danilo era di natura psicologica, non politica. Eravamo dei piccoli borghesi tutti e due. Lui voleva fare il colpo grosso e poi ritirarsi in santa pace. Io volevo continuare a fare ciò che avevamo sempre fatto. Mi piaceva, oltre ai soldi, c'era pure la soddisfazione di muovermi, agire, di vincere contro tutto l'apparato poliziesco. Anche se erano piccole battaglie, erano le mie battaglie, capisci? Ma allora non era vero che ti proponevi di passare alla guerriglia. Ma che vuoi, per me era già una guerriglia quella che facevamo. Mi andava bene così, te l'ho detto. All'altro ci avevo rinunciato dopo le prime 4 o 5 azioni. Danilo se ne fregava e cominciò a cercare solo la grana. Adriano dovevo minacciarlo e ricattarlo perché venisse. Tu eri perduto nei tuoi sogni, che ormai mi parevano irrealizzabili. E allora perché dovevo agire diversamente? Cominciavo a comprendere. Mi ero sbagliato sui miei compagni e forse era inevitabile che essi si fossero comportati così. Il denaro corrompe, l'insuccesso dei progetti li aveva demoralizzati. Indifferenti ai loro ideali di una volta, erano caduti in quell'amaro scetticismo tipico dei piccoli borghesi, che credono solo in se stessi e basta. Avevamo cominciato a sperperare il denaro dapprima senza accorgersene, poi prendendoci gusto, quel denaro che doveva costituire il fondo per un'attività diversa. Poi Danilo si era preoccupato per i rischi troppo forti, aveva visto che si correva verso la morte, allora aveva tentato di accelerare i ritmi per poi sganciarsi, ma se n'era andato in un incidente aereo prima di riuscirvi. Piero da quel momento era diventato intrattabile, aveva continuato a sperperare i soldi e al tempo stesso a premere continuamente per fare altri assalti, sempre più duri, in una folle corsa alla sfida per la sfida. In fondo il nostro, per ragioni diverse, era stato un suicidio collettivo. Ero alla finestra, fuori cominciava ad albeggiare, la nebbia andava diradandosi, la campagna era davanti a me umida, piatta, desolata, vuota come era vuoto il mio futuro. Erano pochi minuti che lui aveva cominciato il suo monologo e in pochi minuti il mondo mi era crollato addosso. Il passato tornava alla mente, improvviso, a tratti, episodi, parole, gesti. Guardavo fuori la campagna, la strada deserta, uno spettacolo angoscioso, rifletteva tutta l'angoscia che mi afferrava. A tratti mi giungeva la sua voce, ma non la sentivo più. Ero solo con la mia sconfitta, in me tutto era morto. Gli uomini con cui avevo rischiato la vita, in cui avevo fiducia assoluta, mi avevano tradito. I miei progetti si erano dissoluti e con esso tutto ciò che per anni mi aveva dato forza di vivere, di combattere. Ogni tanto una frase. Non ti dicemmo mai nulla, come non ti ho detto niente in questi giorni. Tu eri troppo utile, indispensabile, te ne saresti andato. Ora siamo alla fine, per questo ti dico tutto. Ormai nulla ha più importanza. Sentivo queste parole e nello stesso tempo non le sentivo più. Ormai il distacco tra me e lui era completo. Non c'era più niente in comune, La sua voce veniva da un altro mondo, da un passato che ora rifiutavo completamente. Guardavo la strada e desideravo solo andarmene, chiudere per sempre con lui e con tutti. Ormai pensavo solo a questo, andarmene. Mi dissi, appena scende la sera me ne vado. Ora non posso, non parlo più, non mi interessa più. Appena si fa buio me ne vado. Il distacco psicologico non basta. È necessario che ognuno vada per la sua strada, faccia lui la sua guerra, se ne resti con le sue follie. Eravamo da neanche un'ora lì dentro. Lui continuava il suo discorso, con voce monotona. Parlava a me o a se stesso? Non so. Forse gli era necessario togliersi il peso dallo stomaco, forse sentiva avvicinarsi la fine. Non sentii neppure di odiarlo, ero solo stanco, di una stanchezza mortale, non volevo più sentirlo parlare, né rispondergli, né guardarlo. Appena buio mi dicevo me ne vado e non ci rivedremo mai più. E tutto sarà finito. Danilo è morto da un anno. Adriano forse a quest'ora è morto anche lui. Ho visto la macchia di sangue vicino al cuore. L'ho visto cadere. Il ragazzo, quello, non ha niente a che fare. Non è mai stato dei nostri. Passò il treno. Un rumore assordante. Poi mi giunsero le ultime parole. Ti ricordi quando acquistammo quelle armi, le mitragliatrici, i fucili, l'esplosivo? Danilo seppe lì tutto, ora sì che servirebbero le bombe a mano. Se vengono quei bastardi, ho una buona mitragliatrice, ormai per me era veramente come se parlasse a se stesso. Si abbassarono le sbarre del passaggio a livello, arrivarono delle macchine, poi si fermò una 1100, scesero dei carabinieri, più in là c'era un gippone. Si avvicinarono al casello, con i mitra spianati, lui sentì dei rumori. Mi chiese cosa fosse. Niente, risposi. Contadini. Pochi secondi, un lampo, il riflesso di tanti anni di addestramento a combattere in sincronismo. L'istinto di avvertirlo, tentare la sorte, ancora una volta. Poi immediatamente la stanchezza, il rifiuto, il distacco psicologico. Ebbero il sopravvento. Basta, questa volta basta. Sono affari suoi. Io non c'entro in questa sua guerra privata. E tacqui. Pochissimi secondi, il rumore degli scarponi nella stanza di sotto, poi su per la breve rampa di scale. Balzò, convinto che fossero dei contadini, mi guardò, vidi una luce di stupore e poi di allarme nei suoi occhi. Girò lo sguardo e si trovò la canna del mitra davanti. Tutto era veramente finito. Dietro il carabiniere sbucò il vecchio maresciallo. Mi guardò. Tu chi sei? Sante notar Nicola, bandito. Dopo l'arresto fummo condotti a San Vittore, dove raggiungemmo Rovoletto. Dopo le formalità di rito inconsuete per noi, fummo portati nei sotterranei alle celle di isolamento, che poi sono le celle punitive. In quei giorni i giornali scrivevano che Adriano era ricoverato in infermeria, era stato ferito da un colpo di rivoltella all'avambraccio, al momento della cattura, mentre aveva le mani alzate in segno di resa, di fronte ai mitra spianati dei poliziotti. Invece anche lui dormiva sul tavolaccio, ai topi. Ma questo lo avrei scoperto molto tempo dopo. Le celle di punizione a San Vittore sono una quarantina. Per l'intero periodo in cui noi tre ne fummo ospiti, in tutto il carcere vennero sospese le punizioni. In quel reparto non poteva entrare nessuno, l'isolamento era completo. La direzione, il procuratore De Peppo e il giudice istruttore Amati fecero le cose in grande. Eravamo guardati a vista da guardie anziane ed esperte. Inoltre, per l'occasione, fu riesumata la regola del silenzio. All'aria ci mandavano uno per volta, per un'ora, accompagnati da due agenti, per andare al colloquio o dal magistrato per gli interrogatori, oppure dall'avvocato, bloccavano tutto il tragitto, rinchiudendo qualsiasi detenuto si trovasse lungo il percorso. Per 7 mesi non ebbi alcun contatto con altri. Passai momenti di crisi profondissima. A volte credevo di non farcela e mi sorprendevo a cercare un modo qualsiasi per farla finita, ma il controllo era ossessionante e capivo che un piano del genere era irrealizzabile. 7 mesi dopo, un imprevisto mi aiutò a uscire dalla segregazione. Il speciale giudiziario mi notificò un mandato di comparizione della procura di Genova. Un anno prima avevo prestato la mia auto a una signora straniera che in un incidente la fracassò. Nel disastro smarrì la patente. La polizia stradale sostenne che non l'aveva mai avuta. Di qui l'imputazione contro di me per incauto affidamento. Sotto forte scorta fui trasferito al carcere di Marassi a Genova. Ero ancora in matricola quando si sparse la voce del mio arrivo. Temevo mi mettessero anche lì in isolamento, invece fui avviato in uno dei bracci. Era ormai sera quando fui solo nella cella. Dalla Bocca di Lupo si vedeva un pezzo di collina, Castelletto. Vedevo la casa dove pochi mesi prima avevo abitato, ne distinguevo quasi le luci. Fu un momento di forte emozione guardare le colline attraverso le sbarre. Si avvicinò alla cella il detenuto inserviente e mi chiese se mi occorreva qualcosa, se avevo mangiato. No, dissi, non ho fame. Dopo mezz'ora ritornò, fece aprire la cella e mise un pacco sulla branda. Dentro c'era di tutto, sigarette, caffè, salame, pollo, prosciutto. Stupito chiesi cosa significasse. Rispose che i detenuti mi mandavano il pacco di loro iniziativa e che dovevo accettare, altrimenti ci sarebbero rimasti male. Fu il primo segno di solidarietà. Prima che lo scopino andasse via, gli chiesi di procurarmi un quotidiano. Ne portò 2. Sul margine c'era scritto il nome del detenuto che li mandava, Domenico. Il mattino dopo uscii nel cortile e dovetti subire l'assalto dei curiosi, rispondere alle domande. Mi accorsi che ero disabituato a parlare ed ero intimidito. 7 mesi di isolamento, tagliato fuori dal mondo, con tutto quel peso sulle spalle, avevano lasciato dei segni. Un paio di giorni dopo scoprii il mio vicino di cella. Aveva una faccia simpatica, con una rada barba bionda e vestiva un giubbotto di foggia militare. Mi colpì la sua serietà. Malgrado fosse giovane, era lui il detenuto che tutti i giorni mi mandava i giornali. Lo fermai per ringraziarlo e passeggiammo insieme. Venni così a sapere che lui era un detenuto politico, il primo che conoscevo. Fu un compagno riservato, non fece domande imbarazzanti. Parlammo del CE, mi informò di com'era andata la sua morte. Ero all'oscuro completamente, a San Vittore per molti mesi ci avevano rifiutato i giornali. 2 giorni dopo tornavo a San Vittore. Domenico era stato scarcerato il giorno prima. Passò a salutarmi e mi regalò un libro di Ho Chi Minh, che conservo ancora. L'incontro con Domenico fu fugace. Non ebbi modo di conoscerlo bene. In seguito avrei seguito sui giornali le lotte e i processi di questo giovane militante rivoluzionario. Ma allora, a Marassi, troppi erano i problemi che premevano. E pochi giorni dopo, senza una difesa adeguata, senza conoscere un solo rigo degli atti e con 75 capi di imputazioni, molte dei quali comportavano la massima condanna, assieme ai miei compagni ero trascinato in corte d'appello a Milano, in un clima di linciaggio, creato dai giornali borghesi per celebrare uno dei processi più grotteschi che si conoscano. Dal giorno dell'arresto erano passati solo 8 mesi. 8 mesi per istruire 23 rapine, 5 omicidi, tentati omicidi, decine di lesioni, eccetera. Tutto questo in 8 mesi. Mi diventava sempre più difficile accettare il carcere. Sapevo che la mia era una situazione senza sbocco. Le più rosee previsioni si traducevano in decine d'anni di galera. Studiavo tutte le notti, calcolando la possibilità e le soluzioni, ma dovevo arrendermi di fronte alla realtà. Se un'azione individuale è possibile per un qualsiasi altro detenuto, per uno come me, con una storia come la mia alle spalle, con un cartellino di grandissimo sorvegliato, le possibilità di un tentativo del genere si riducevano enormemente. Poi il problema principale era In caso di successo, dove andare? Che fare? 8 giorni di latitanza nei dintorni di Alessandria nel 67 mi erano bastati. La caccia sarebbe stata spietata, come allora. Ricordavo quando con Piero restavamo inchiodati per ore in un fosso con le pantere che impazzivano intorno. Avevano l'ordine di sparare a vista. Ricordavo la sete, la fame, la disperazione di trovarsi in una situazione impossibile. Da nessuno avrei avuto aiuto e solidarietà. Avevo contattato un po' di big della mala, ma quando affrontavo questo problema li vedevo irrigidirsi, capivo. Fuori sarei stato d'impiccio, la mia libertà avrei dovuta difenderla sparando, uccidendo, rubando, fino a che la mia pallottola avrebbe posto fine a tutto, o peggio, un paio di manette mi avrebbero stretto nuovamente i polsi, e questa volta definitivamente. Per quelli come me non esistevano i tentativi. Il sistema non mi avrebbe offerto un'altra occasione. Scartai quindi per il momento questa possibilità. Ogni giorno conoscevo nuovi compagni. La loro storia era sempre uguale: infanzia disagiata, adolescenza fatta di collegi come il mio e poi la casa di rieducazione e a 18 anni il carcere. Le storie familiari si somigliavano tutte: miseria e abbandono. Una vita di sfruttamento fuori, una vita da sfruttati dentro. Il lavoro era ed è retribuito in modo ridicolo, offensivo. 8 ore giornaliere per 10-12 mila lire mensili, e si pretendeva che fosse rieducativo. In tali condizioni si imparava solo a odiarlo come un'ossessione e con esso tutto il sistema che inevitabilmente e premeditatamente spinge migliaia di giovani ad intraprendere l'unica specializzazione possibile, quella del crimine. Al ritorno da Marassi fui nuovamente rinchiuso nella cella di isolamento. Stavolta protestai e passai così al terzo raggio, quello dei minorenni. Il processo volgeva ormai al termine e in aula un giornalista mi allungò la stampa. Seppi così che nel carcere torinese i detenuti erano scesi in agitazione e si erano ammutinati. Era cominciata la lunga battaglia per la riforma dei codici. A San Vittore i giornali erano rigorosamente censurati, ma riuscii a portare clandestinamente il pezzo che mi interessava e lo feci girare nelle celle. Nel cortile subito i ragazzi a gruppi discutevano animatamente. Intanto Radio Bugliolo portò la notizia negli altri raggi. Prendemmo accordi per ammutinarci il sabato. Andò così. Il terzo, il quinto e il primo raggio non rientravano dall'aria. Cominciammo a scandire la parola d'ordine basta con i codici fascisti. I detenuti ammutinati erano più di 1.000. Coi mattoni divelti dal selciato battevamo ritmicamente contro le inferriate che delimitavano lo spazio per le passeggiate. Dagli altri raggi rispondevano, poi chiedemmo a gran voce la presenza del procuratore della Repubblica. Dopo un'oretta entrò in cortile il dottor Corbo, il direttore. Si fece un immediato silenzio, carico di tensione. Disse di scegliere uno che ci rappresentasse. Il procuratore sarebbe arrivato. Tutti guardarono verso di me. Corbo mi disse: Lei, notar Nicola, è d'accordo? Sì, se tutti decidono in questo senso. Tutti gridarono: Sì! Corbo andò via, raccomandandoci la calma. Poi qualcuno gridò: Discorso! A questo proprio non ero preparato, non conoscevo bene il problema, per cui mi battevo, ma avevo notato che la maggioranza ne sapeva meglio di me. Un compagno mi disse di non preoccuparmi perché gli altri raggi avrebbero scelto certamente gente pratica dei problemi carcerari, quindi noi ci saremmo limitati ad appoggiare le richieste. Ma ora mi chiedevano un discorso. Mi fecero salire su una panchina e pressappoco dissi: La lotta che stiamo affrontando è giusta e l'entusiasmo con cui la conduciamo dimostra la nostra compattezza. Questo le autorità non possono sottovalutarlo. Abbiamo bisogno che tutti sappiano in quali condizioni ci troviamo. Comunque finisca questa giornata, dobbiamo ricordarci di rimanere sempre uniti contro di loro. Dobbiamo imparare dagli operai. Quando la classe operaia era disunita, disorganizzata, era facile preda del padrone. Gli operai capirono l'errore e si organizzarono in partiti e in sindacati e così uniti poterono rivendicare i loro diritti. Noi oggi stiamo facendo la stessa cosa, quindi l'insegnamento che ne deriva è quello di essere uniti e continuare a lottare. Conclusi, dato che non sono bravo a fare discorsi, propongo di cantare tutti insieme le canzoni degli operai. Al di là della cinta mi dicono che c'è molta gente. Ebbene, ci saranno anche degli operai a sentirci. Cantiamo tutti insieme Bandiera Rossa, la sapete? Sì! Questo discorso mi costò 2 anni nell'infame carcere di Volterra. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so ridotto già. Libri ribelli.